Regione Emilia-Romagna sta agendo come può e soprattutto penso da un punto di vista dell'accoglienza con grande sensibilità e grande anche professionalità messe in campo. Ricordiamo che ad oggi sono arrivati circa 19.000 profughi provenienti dall'Ucraina, sono più di 8.000 i minori, stiamo accogliendo un quarto del totale della popolazione che sta fuggendo dalla guerra in Italia. Segno che questa è una terra che si conferma terra di accoglienza, terra di solidarietà, lo dimostrano anche i dati e soprattutto i fondi raccolti grazie a questa campagna che appunto è stata promossa dalla Regione Emilia-Romagna insieme alla Protezione Civile Regionale. Sono stati raccolti oltre 2 milioni di euro grazie alla sensibilità di cittadini, istituzioni, enti, associazioni e anche tante imprese. Questo progetto di legge serve a spendere in modo tempestivo e urgente questi fondi che sono stati appunto raccolti. Sono tre, diciamo così, le direttive da questo punto di vista: l'accoglienza appunto dei profughi in Emilia-Romagna, un sostegno alle ONG che si occupano di cooperazione internazionale e poi, perché no, guardiamo anche al futuro, parliamo di ricostruzione, quando sarà possibile. Oggi evidentemente non è possibile, vorremmo anche qui giocare la nostra partita con magari un impegno nella ricostruzione di una scuola piuttosto che di una struttura sanitaria o di un luogo di teatro e di socializzazione. Anche su questo ci siamo, per dimostrare il cuore grande dell'Emilia Romagna. La Regione Emilia Romagna sta facendo la propria parte fino in fondo, lo sta facendo ovviamente con convinzione per dare una mano al popolo ucraino e a tutti i profughi che stanno arrivando. Gli emiliano-romagnoli come sempre hanno risposto con grande generosità, abbiamo già raccolto oltre 2 milioni di euro che verranno destinati appunto attraverso il progetto di legge che è incardinato in commissione, che la prossima settimana arriverà in aula. Io credo che l'elemento però da sottolineare soprattutto sia che questa accoglienza di cui l'Emilia Romagna è sempre protagonista debba essere riservata in questo caso ovviamente al popolo ucraino, ma in generale a chi scappa dalle guerre, perché non possiamo fare differenze tra chi arriva dal mare o chi arriva via terra. Chi scappa dalle guerre deve essere comunque sempre aiutato a prescindere dal colore della pelle e dalla religione in cui crede.